Radio Città Fujiko, io sono Mauro, oggi Erika è in altre faccende affaccendata e quindi starò io a portare avanti la baracca e lo farò con un Tinder Music. Il Tinder Music, per chi non lo sapesse, è un'estrazione dei migliori singoli, o quelli che secondo noi sono migliori, magari non lo sono per tutti, comunque quelli che secondo noi sono i migliori singoli usciti recentemente, e cominciamo con un brano che si chiama Vivi di Dinosaurio featuring Cane sulla Luna. Una roba abbastanza strana, andiamo a scoprirne un po' di più. Vivi è un brano pop, intanto, contaminato dalla musica elettronica e anche un po' dal rap parlato, che va un po' per la maggiore in quest'ultimo periodo. E chiude un ciclo di release del progetto Dinosaurio, quindi 5 capitoli, 5 singoli che raccontano un po' la storia di Dinosaurio. Che ci dice? Vivi è prima di tutto un featuring, una canzone che prende forma dall'armonia di due compagni d'avventura che hanno condiviso tanto e hanno voglia di continuare a farlo. La canzone parla di quello che vedono i nostri occhi attraverso la grandezza dei nostri cuori e l'inquietudine delle nostre anime, e il ritornello è la nemesi che riporta tutto in un sacro equilibrio. Sentirsi reciprocamente vivi è l'atto d'amore più nobile tra le persone. Sono andato anche un po' a cercare la biografia di questo dinosaurio e in realtà non c'è scritto granché. Dinosaurio custodisce la fragilità di una penna troppo irrequieta per la carta, ma che trova pace nella musica. Nasce dall'esigenza di trovare un antidoto all'estinzione intellettuale ed emotiva in corso. Insomma, non ci raccontano chi è, da dove viene, cosa fa il signor Dinosaurio, che magari si chiama Dino di nome, Saurio di cognome o viceversa, non lo sapremo mai. Il progetto debutta a maggio 2020 e prevede la realizzazione di, come dicevamo, un racconto in 5 capitoli, quindi 5 singoli con dei producer di volta in volta diversi, uniti dalla penna e dalla voce di Dinosaurio. In questo caso il singolo è featuring appunto Cane sulla Luna, che è un cane che si trova sulla Luna, presumibilmente non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Sappiamo però che Dinosaurio, la penna di Dinosaurio, sotto altri nomi, altre forme, altri concetti, ha proposto musica a partire dal 2015, come Il Branco, nel 2017 il secondo, un LP sempre con Il Branco, poi con il nome di Flora, poi Musica Aeroplano, poi Certi Amori Esistono, insomma un sacco di robe questo Dinosaurio, che adesso vi facciamo ascoltare con il nuovo singolo Vivi. Abbiamo visto il meglio di ogni pezzo di mondo incontrato, abbiamo amato e sognato per caso, abbiamo sempre ringraziato. Abbiamo preso il meglio di ogni pezzo di mondo solcato, abbiamo amato e incassato per caso, abbiamo sempre ringraziato. Quando correvamo dietro i cani, le madonne sorridevano. Quando cantavamo quei diari, le madonne si arrendevano. Ogni mattoncino di coraggio conquistato con il fiato corto, ogni mattina a maledirmi, a darmi torto, e poi risorgo. L'ho capito piano piano che se mi nascondo penso meglio, mi preparo le squame e gli anfibi, il mio mantello, osservo ogni millimetro di cielo, quello sereno, quello sereno. Accetto tutto, salto, tremo, no, non mi sembra vero. L'ho capito che l'ascolto è sacro, a volte sto zitto. Ho capito che alla fine arriva primo solo chi va dritto. E le curve sono belle solo quando ti separi dal fallimento. Ciò che serve ancora adesso è tentare di restare per sempre al primo appuntamento. Amico mio, ci andiamo a fare un giro, che mi sento vivo, che mi sento vivo. Amico mio, ci vengo a fare un giro, che mi sento vivo. Thank you. Lo so che non abbiamo pace e non ci piace portare una croce. Parliamo sottovoce, teniamo tutto dentro, e intorno tutto tace. Ma ora che abbiamo 30 anni da anni, abbiamo i cuori più grandi. E grazie per tutti i consigli, saremo adulti, ma siamo pure figli. E non c'è niente che ci possa togliere la voglia, oltre ogni soglia. Abbiamo un patto con la verità, con la verità. E ci teniamo stretti la famiglia. E abbiamo un ego che non vuole dormire, a cui raccontiamo favore solo a lieto fine. E lo portiamo tutti i giorni in palestra, ma la forza sta nella nostra debolezza. Amico mio, andiamo a fare un giro, che mi sento vivo, che mi sento vivo. Amico mio, ci vengo a fare un giro, che mi sento vivo, che mi sento vivo. Macchinista, ferma il treno, seguo a piedi, tanto c'ho lo zaino pieno, che fino a ieri aveva attorno solo specchi. Ma la solitudine fa bene, solo se la cerchi. Continuiamo con un altro singolo, peraltro di questo gruppo vi avevamo già parlato tempo addietro, qualche mese fa, quando usciva Giugno dei Settembre. So che sembra un casino da raccontare così, ma la band si chiama Settembre, il singolo di cui vi parlammo tempo fa si chiamava Giugno, e adesso il nuovo singolo dei Settembre di cui vi parliamo oggi si intitola Due Come Noi. Due Come Noi è il secondo estratto dall'album Grattacieli di Basilico, che sono dei posti bellissimi in cui profuma tutto, pubblicato a fine settembre, di cui vi abbiamo accennato un po' se andate a cercare su www.festivalsbackpack.it. E di questo brano, di Due Come Noi, trovate anche il video, che è un collage di filmati della vita dei Settembre, e ci raccontano gli stessi Settembre. Nei video ci sono i luoghi, i colori e le situazioni diverse che ci hanno accompagnato fino ad oggi, città ed esperienze unite dalla musica. Due come noi, fragili eroi, un po' d'amore e un po' di guai, abbracciati a quella che sarà mentre dorme la città. Sono i versi di una canzone per chi crede nei propri sogni e nella potenza dirompente dell'amore per la vita. In un momento come questo ne abbiamo veramente bisogno. Aggiungono. Parliamo un pochino delle sonorità di questo brano e anche di Grattacieli di Basilico, che è il disco dei Settembre, uscito a settembre del 2020. C'è molta bossa nova in sottofondo, pianoforti, chitarra classica, cori e riverberi, insomma si rifà a un passato musicale particolare, non classico, con elementi molto contemporanei. Ci sono molti elementi autobiografici, ci raccontano in questo album e anche in Due Come Noi, che è il brano che vi presentiamo oggi. I Settembre sono un duo, una coppia sia nella musica che nella vita, Angela Cicchetti e Ivan Imperiali. Vengono dalla campagna ma vivono a Roma, nel quartiere Bohemien del Pigneto, lo chiamano loro. Diventano però una band a Londra, dove fanno la gavetta suonando un po' di qua e un po' di là, con brani riarrangiati per chitarra classica e voce. Insomma, Due Come Noi è una collezione di diapositive di un viaggio artistico, umano ed emozionale della coppia, di Angela e Ivan, quindi è molto autobiografico. E adesso, senza tergiversare oltre, vi faccio ascoltare Due Come Noi, tratto da Grattacieli di Basilico dei Settembre. Io vorrei cancellarti per poi rincontrarti, come Jim Carrey in quel film, per tutta la notte. Io vorrei svegliarmi col trucco e cantare a San Siro per te, come fosse per sé. Nascondermi sotto ad un camion con te. poi senza pagare scappare con te per tutta la notte. Due come noi in una Polaroid, mentre il tempo se ne va. Fragili eroi, un po' amore, un po' guai, abbracciati a decisamente genere. Passiamo dal pop alla bossa nova per arrivare a un genere un po' più movimentato, un pochino più rock, anche se non molto hard, ecco, mettiamola così. Parliamo di Budapest, non la città, ma il nuovo singolo di Leonardo Angelucci, che è un capellone, rocchettaro, cantautore, chitarrista e producer romano, che ha esordito nel 2018 con Questo frastuono immenso, che è stato il suo primo album. Budapest è una canzone d'amore dal sapore indie rock, dedicata al viaggio e alle lontananze, ci racconta Leonardo Angelucci. Anche questo brano, come Enne, che era un singolo precedente, nasce durante l'esperienza del chat di Mogol nella campagna umbra. Piace l'Umbria. Sconnesso dall'ipersocietà multimediale, circondato solo da musica e arte. Ecco, vedi, un bel ambiente dove creare della musica d'autore, come quella di Leonardo Angelucci, che ci racconta: ho avuto la necessità di raccontare l'amore distante attraverso una collezione di immagini tratte dai viaggi e dalle esperienze vissute con la mia compagna. Di qui la voglia di sognare e immaginare anche viaggi futuri, che speriamo tutti quanti di poter fare. Ma chi è sto Leonardo Angelucci? Intanto è nato nel 1991 e sappiamo tutti che quelli del 91 quest'anno fanno i 30, quindi iniziano ad invecchiare. E Leonardo già a 20 anni cominciava a suonare con i Black Butterfly, con cui pubblica nel 2011 Night Bus. Poi nel 2014 pubblica I'm Free con i Lateral Blast, prog rock, quindi roba un pochino più complessa e anche un po' più dura come musicalità. Poi inizia a lavorare al suo progetto solista verso il 2016. Nel 2017 esce Contemporaneamente, che è il titolo del suo primo EP, e questo EP lo porta un po' in giro a suonare anche con il Muro del Canto, con Giorgio Canali, Coez e un po' di gente. Insomma, si fa la gavetta, come si suol dire. Nel 2018, abbiamo detto, è uscito il suo album di debutto, che ha avuto delle ottime recensioni sia da parte della critica che del pubblico, Questo frastuono immenso. Nel 2020 è anche selezionato per Musicultura e vince il premio del pubblico. L'8 gennaio è uscito il nuovo brano Budapest, dedicato agli amori distanti, come dicevamo. Quindi adesso vi facciamo ascoltare Leonardo Angelucci con Budapest. Non c'è distanza, non c'è differenza fra due che si toccano al solo sguardo. Non c'è tristezza, nessuna violenza fra te, le coperte e un pensiero bugiardo. Per questo ora ti ho scritto un pezzo. senso senza i tuoi seni e le tue labbra. Poco mi resta dell'uomo che indosso. È capitato che tu mi chiedessi dove sei. Cambiamo di nuovo genere e passiamo a qualcosa di più vicino alle mie personali corde musicali, un brano abbastanza alternative rock, ma non troppo pesante, il terzo singolo estratto da Synchronizer, che è un album che uscirà prossimamente per Inri, che è un'etichetta che a me piace un casino. Questo brano si chiama Elephant e la band si chiama Picked Jacks. I Picked Jacks sono una band fiorentina dal respiro molto internazionale, sentirete poi anche nel brano tanti richiami alla musica britannica, direi. Negli anni i Picked Jacks sono stati gruppo spalla per gli Interpol, intanto vincitori di Sanremo Rock 2019 e di MTV The Freshman. Hanno fatto anche un tour in giro per il mondo, sono stati all'Indie Week di Toronto, sono stati in Grecia, insomma hanno suonato un po' dappertutto. Ma arriviamo un po' a parlare di Elephant. La band racconta la vita di una persona cosparsa di bivi, decisioni e incontri che possono, nella loro positività o negatività, arricchire l'esperienza di chi le sta vivendo. Le parole sono sostanzialmente due, passione e positività. L'amore nella sua crudezza reale, vissuto e combattuto per ottenerne uno più maturo, vero e duraturo. Ogni elemento inserito nel video è una rappresentazione surreale di questo concetto, ci dice un po' la band, che infatti ci racconta anche che c'è un bellissimo videoclip realizzato da Marco Comerio, girato in un hotel di Montecatini, in Toscana, con questo facchino svogliato che asseconda i capricci dei clienti dell'hotel e vaga per i corridoi, che è un po' la metafora di un viaggio della sua vita. Senza perderci in altri discorsi, vi faccio ascoltare Elephant, il nuovo brano dei Picked Jacks, questi quattro ragazzi di Firenze con il loro alternative rock bello potente. You had once it all shatters on the sand. You remember the very first, the second as well as the third. You're the one, the only one. I'm certain as the sun. Accomplices of romance. me be your king. Lie to me gradually. To let you swim the field. Lie to me tenderly. Me gradually, only in order to let you swim the fear of getting older. Adesso, per chiudere in bellezza questo Tinder Music di lunedì 1 febbraio 2021, vi faccio ascoltare Carlitos, che è il nuovo video dei I Casini di Scie. E c'è stato, non so se avete notato un po', forse solo una mia impressione, un crescendo di violenza nella musica che vi ho proposto oggi, e dopo l'alternative rock dei Picket Jacks passiamo al punk. Il punk appunto dei I Casini di Scie, che hanno buttato fuori un EP a settembre 2020 che si chiamava Parco Gonzo. Adesso pubblicano il video di Carlitos, che è una bonus track dell'EP, ci raccontano, che i tre ragazzi di Senigallia hanno deciso di distribuire così a distanza di pochi mesi dall'uscita dell'album. I Casini di Scia sono un po' le scimmie dell'underground italiano, non hanno regole perché non ce ne sono. Si formano negli ultimi giorni del novembre 2019 e sono Mauro Mariotti, voce e chitarra, Andrea Marcellini, basso e organetto, Simone Buoncompagni alla batteria. È una musica molto old school, l'album è stato fatto in presa diretta, insomma, per chi non è pratico del mestiere, hanno suonato tutte e tre insieme, hanno registrato quello che usciva fuori senza fare prima la batteria, poi il basso, insomma, vabbè, in presa diretta, è una roba abbastanza old school che negli ultimi tempi si trova molto meno. E la band ci racconta: il caos genera creatività. Carlitos è colui che esprime il caos, incurante degli ostacoli che gli vengono imposti. Carlitos è attitudine, furore punk, va contro il dominio della hustle culture e alla costante ricerca di se stesso, pur conscio del rischio di non trovarsi mai, ma con la genuina predisposizione a non accettare compromessi. E ci dicono sul video: è stato girato in piena zona rossa e Sibilla, il cane protagonista del video, racchiude in pieno il significato del brano. Non potevamo trovare attori migliori. Quando si dice che l'attore è un cane, in questo caso è letterale la questione. Preparatevi a pogare con il muro di casa vostra o coi sedili della macchina in cui vi trovate, perché vi faccio ascoltare Carlitos, l'ultimo brano e video dei I Casini di Scia. Chiudiamo questo Tinder Music con un po' di attitudine punk e buona settimana.